si sono consolidate nell'ottimo volume che è uscito, mi pare, l'anno scorso, oppure ai primi di quest'anno. Sì, ecco. Ottobre, insomma. Parlerà sulle fonti giuridiche dell'alto medioevo tra Italia e Germania. Due esperienze a confronto, prego. Allora, la presente relazione, per l'invito alla quale desidero esprimere la più viva riconoscenza agli organizzatori del congresso, e in particolare i professori Pierangelo Schiera e Paolo Prodi, ha avuto due proposte di intitolazione successive, come voi avrete visto nel formulario del congresso, legate ai due punti di vista da cui si può porre il discorso. Nel titolo Le fonti giuridiche dell'alto medioevo tra Italia e Germania, due esperienze a confronto, prevale evidentemente il tentativo di una prospettiva generale. Nell'altro titolo, Savigny e l'Italia, la via del Piemonte, prevale invece la visione della concreta linea conduttrice attraverso la quale il fenomeno si delinea e soprattutto Giusto. Credo che sarà anche bene per gli italiani, perché se uno viene mitragliato continuamente abbiamo tutte difficoltà. Allora stavo dicendo che l'altro titolo, Savigny e l'Italia, la via del Piemonte, prevale invece la visione della concreta linea conduttrice attraverso la quale il fenomeno si delinea e soprattutto dei nuovi materiali emersi a qualificarlo. È infatti sulla via del Piemonte che, attraverso una serie di documenti inediti, si va rivelando un passaggio tra le due culture, che ebbe certo altre e più vaste ramificazioni, ma che qui si pone per la prima volta in evidenza, connotando in luce nuova quella funzione fondamentale di connessione e di transito che ebbe il Piemonte rispetto all'Europa centrale. Una funzione per vero in qualche modo annebbiata e sminuita dal tradizionale giudizio sull'orientamento del Piemonte verso il mondo francese, che resta giusto in sé, ma che va corretto e integrato con più aperte e varie prospettive. Di esse emergono come protagonisti personaggi che via via andrò esaminando, finora pressoché ignorati, o ignorati sotto tale aspetto, cioè quello che interessa nella presente relazione, che invece nobilitano e connotano di originale impegno l'esperienza culturale piemontese di quel tempo. Che d'altronde il modello germanico fosse essenziale per lo studio delle fonti giuridiche dell'alto medioevo era già evidente, come era evidente il focalizzarsi di tale modello sulla figura del Savigny. Le ricerche concernenti la recezione della sua opera in Italia si erano orientate in passato prevalentemente verso la Toscana, dove senza dubbio il grande giurista tedesco ebbe un interessante seguito. Ciò non di meno, già un importante saggio dedicato nel 1979 da Filippo Ranieri all'influsso di Savigny sull'Italia non mancava di fare riferimento allo studioso piemontese che più notoriamente ebbe rapporto con lui, cioè Federico Sclopis. Ma i rapporti con lo Sclopis non esaurirono la realtà del contatto tra il Savigny ed un Piemonte decisamente orientato, come d'abitudine si pensa, verso la cultura giuridica francese. Il reperimento di numerosi documenti inediti, la rilettura delle opere e in particolare delle traduzioni, lo spoglio delle più significative riviste giuridiche, a cui non a caso taluni inediti rinviano, consentono ora di modificare un quadro troppo semplicisticamente schematizzato, ponendo in luce più vasti e complessi rapporti che danno della cultura storico-giuridica piemontese nella prima metà dell'Ottocento un'immagine maggiormente variegata, complessa e realistica. In altri termini, se è vero che dal punto di vista normativo e istituzionale l'orientamento generale del Piemonte va decisamente verso il modello napoleonico, perpetuatosi nella Restaurazione fino alla codificazione sabauda, ciò non significa di necessità che la cultura storico-giuridica piemontese sia stata in tal senso monocorde. E anzi può essere di particolare suggestione rilevare il divario tra i due aspetti, cioè quello dei giuristi legati alla pratica forense, che operavano prevalentemente nel mondo universitario e per cui il modello germanico era di fatto remoto, e quelli orientati verso la ricerca scientifica che trovavano per lo più spazio nel mondo delle accademie e che più apertamente guardavano oltre i confini. Ho potuto effettuare tali considerazioni in seguito al già menzionato rinvenimento di vari scritti inediti giuristi piemontesi, fin anche dell'illustre Sclopis, affiancati e integrati da un'altrettanto inedita e fitta corrispondenza intercorsa tra gli studiosi subalpini e alcuni colleghi tedeschi. Si è allora progressivamente rivelato il quadro di un Piemonte fervido di ricerche e di iniziative, aperto per conoscenze in diretta, ma anche e soprattutto diretta al mondo tedesco. Un ambiente, insomma, se si vuole appartato, ma quanto mai attivo e indicativo di un divenire della cultura giuridica che vide vivaci ingegni e nobili coscienze affrontare spesso sacrifici di ogni genere, come vedremo, fino al limite dell'impossibilità di pubblicare i propri scritti. E ciò al fine di uscire dagli schemi angusti di una situazione specifica che senza dubbio privilegiava la pratica del diritto sulla libera esperienza della ricerca. Dagli archivi e dalle biblioteche di Torino, Roma e Firenze, ma anche da quelli di Parigi e ovviamente dai grandi centri tedeschi di Marburg, Heidelberg, Stuttgart, Bonn, Leipzig, Berlino Ovest ed Est, ho visto via via riemergere una documentazione quanto mai ricca e illuminante, della quale cercherò qui di enucleare in sintesi le idee conduttrici, i protagonisti maggiori, le situazioni contingenti e i limiti condizionanti. La miniera pressoché inesauribile che sia le opere inedite sia i carteggi costituiscono, oltre alla riconsiderazione degli scritti editi e degli studi esistenti che ne ricevono nuova e vivissima luce, rende ovviamente complessa una ricostruzione d'insieme del divenire della cultura giuridica in Piemonte nell'epoca in cui si avviò e si sviluppò l'influsso del Savigny e della scuola storico-giuridica tedesca. Proprio a questo influsso, ai suoi tempi, ai suoi modi, alle sue circostanze, ai suoi protagonisti, è dedicata la presente relazione, il cui intento primario è quello di gettare luce su un'area degli studi rimasti finora nell'ombra e di promuovere la ricostruzione di un equilibrio nel quadro assai più vario e ricco di quanto non si ritenesse dei rapporti tra due mondi culturali posti a confronto. La ricezione della cultura storico-giuridica tedesca in Piemonte appare ramificata in vari settori. Inizialmente la scoperta delle fonti giuridiche tardo-imperiali e alto-medievali favorì un cammino degli studi parallelo con quel mondo, che faceva proprio del recupero delle fonti il suo peculiare polo di attrazione. La tradizione storico-erudita piemontese, un certo gusto per la ricerca dei documenti e per lo studio delle antiquitates, sviluppatosi su influenza del Muratori già nel Settecento e sopravvissuto per merito precipuo di coloro che ne avevano seguito le tracce, dal Terraneo al Carena e al Vernazza, favorirono tali ricerche, da cui i piemontesi non vedevano estraneo un certo orgoglio patrio nel ricostruire la propria identità storica e culturale. Negli altri stati della penisola la realtà si presentava alquanto difforme. Il significato fondamentale del recupero della giurisprudenza tardo-imperiale e alto-medievale attraverso la pubblicazione e lo studio delle sue fonti non era altrettanto avvertito. Come è noto, il Savigny aveva visitato negli anni 20 gli Atenei dei principali stati della penisola e li aveva definiti agglomerati di cultura avvocatesca, poveri dal punto di vista scientifico. Se il fenomeno della codificazione e della metodologia esegetica interpretativa da essa derivata aveva condizionato il giudizio del Savigny, è certo che la cultura storico-giuridica italiana non presentava in quel momento, salvo rare eccezioni, un panorama di spicco. Anche in seguito la situazione non subì modificazioni profonde. Per quel che precipuamente interessa ai fini della presente relazione, la riscoperta e lo studio delle fonti giuridiche tardo-antiche e alto-medievali, primario negli interessi degli studiosi tedeschi, non ebbe analogo riscontro, tralasciando sporadici studiosi come il Troia a Napoli e il Mai nello Stato Pontificio, negli altri stati della penisola, ad eccezione proprio del Piemonte, dove le scoperte di Amedeo Peyron effettuate negli anni 20 svilupparono fortemente questo genere di studi, che si venne caratterizzando per la sua vastità e completezza. La pubblicazione nel 1824 dei Fragmenta Taurinensia da parte del Peyron, riportando alla luce dal palinsesto della Biblioteca Universitaria di Torino a secondo due buona parte dei primi cinque libri del codice teodosiano fino ad allora sconosciuti, segna l'avvio di tali ricerche. La loro vastità e complessità è evidenziata in modo incisivo proprio dallo stesso Peyron. Questi non manca di sottolineare nella citata opera i nuovi indirizzi della storiografia giuridica, consistenti sia nella pubblicazione di Annalia, quae multigenam de iure iurisque historia cognitionem referunt, sia nell'invio di dotti ricercatori di codici per raccogliere in unum corpus quidquid est romanarum legum. E pone con evidenza l'accento sull'apertura europea della ricerca e sulla conseguente necessità di cooperazione tra gli studiosi. È dunque comprensibile che un particolare vigore assumono in tale ambito gli studi sul codice teodosiano, i quali si sviluppano parallelamente in Italia e in Germania, determinati proprio dalla scoperta di costituzioni intere o frammentarie rimaste fino a quel momento ignote. Infatti, contemporaneamente al Peyron, il Clausius scopre nel codice miscellaneo C29 INF della Biblioteca Ambrosiana di Milano alcune costituzioni relative al primo libro del codice teodosiano integro e riporta per la prima volta alla luce il verbale della seduta del Senato romano del 438, Gesta Senatus, relativa alla pubblicazione del codice in Occidente. Il fervore di studi romanistici che si verifica all'inizio del XIX secolo consiste insomma soprattutto nella pubblicazione di alcune opere fino ad allora inedite e nella riedizione di altre con maggiore apparato filologico e più numerosi sussidi critici. Oltre all'edizione dei frammenti, il Peyron accompagna infatti la sua opera con un prezioso commentario sviluppato seguendo la metodologia del Godefroy e fornisce un'ampia base di discussione su alcune questioni che sono tuttora al vaglio della storiografia. La notizia dei ritrovamenti nella biblioteca ambrosiana e in quella torinese ebbe vasta risonanza tra gli studiosi tedeschi, che andavano compiendo proprio in quel periodo questo genere di ricerche, investigando a tal fine le principali biblioteche europee. In tali ricerche il punto di riferimento era il Savigny. A lui venivano attraverso minuziose lettere comunicati gli sviluppi delle conoscenze e il più delle volte richiesti pareri e consigli, soprattutto dal punto di vista tecnico. Il Savigny rispondeva puntualmente alle lettere, in molte delle quali venivano anche riferite le scoperte che i pochi studiosi non tedeschi andavano nel frattempo compiendo. Così avviene per il Peyron, a proposito del quale il Savigny annota scrupolosamente sia le vicende del ritrovamento sia quelle della pubblicazione dei Fragmenta Taurinensi. Il Blum, posso dire Peyron, si scrive P-E-Y-R-E-O-N, Peyron. Sì, che però diciamo che i torinesi lo dicano alla francese, Peyron. Di solito si dice Peyron, però a me mi hanno corretto con Peyron. Peyron, sì. C'è una piazza Peyron. Sì, a Torino. A Torino. Pittore vive a piazza Peyron, credo. Peyron. Il Blume, venuto a conoscenza delle scoperte torinesi, informa il Savigny, come si può dedurre dal carteggio pubblicato qualche anno fa dallo Strauch. Assai interessante si presenta d'altronde una lettera da me ritrovata nel fondo Peyron. In essa il Blume, comprendendo che il Peyron non avrebbe mai ceduto i fogli ritrovati, come era appunto intento del Savigny, si limita a chiedere il maggior numero di informazioni su quei fogli e a proporne un'edizione in Germania. Assai rilevante in tal senso anche lo scambio di lettere tra il Peyron e il Niebuhr, lettere conservate in parte nel fondo Peyron della Biblioteca Universitaria di Torino e pubblicate recentemente dal Fischer, in parte nel Nachlass Niebuhr nell'Akademie der Wissenschaften a Berlino Est, tuttora inedite. Questo peculiare gusto per la riscoperta della fonte antica, quale unica base realmente funzionale per costruire un discorso storico, trova il Piemonte davvero senza pari nell'Italia del primo Ottocento. e ha nella figura finora pressoché ignorata di Carlo Baudi di Vesme, operante sulla scia del Peyron nell'impostazione degli studi, il suo maggiore rappresentante nel regno di Sardegna. Ciò anche perché il Peyron, pur affiancando al codice teodosiano un importante commentario, non dedicò che una parte limitata della sua produttiva esistenza a questo genere di studi, divenne infatti era un noto orientalista. Trovandosi ad avviare la propria opera nel momento di svolta tra il periodo della Restaurazione, che tenacemente aveva ostacolato ogni apertura innovatrice, ed il regno Carlo Albertino, che all'opposto si rivelò determinante per gli sviluppi culturali futuri, il Baudi di Vesme appare fin dagli studi giovanili caratterizzato dall'attenzione ai rapporti con la cultura germanica. In tali rapporti la sua posizione appare grandemente riguardosa, ma al tempo stesso non priva di autonomia e di originalità. Ottimo conoscitore, a differenza della maggior parte dei suoi conterranei della lingua tedesca, il Baudi instaura contatti epistolari con gli studiosi tedeschi, spesso illuminanti per le dichiarazioni e le valutazioni espresse. La cospicua corrispondenza con Hänel, Döniges, Leo, Lachmann, Einbach, Mommsen, che ho avuto la fortuna di ritrovare nel fondo patetta della Biblioteca Apostolica Vaticana, testimonia quanto egli fosse attento e sensibile alle suggestioni e ai valori peculiari di quell'ambiente. Riprendendo in esame i frammenti torinesi per supplire le lacune rimaste a causa della scrittura troppo svanita, il Baudi reperisce alcuni fogli sfuggiti all'analisi del Peyron. Le scoperte vengono da lui rese note in un articolo del 1836 in cui descrive minuziosamente 7 fogli trovati nel palinsesto torinese che recano ulteriori nuovi titoli e costituzioni appartenenti al primo e al terzo libro del codice. Per mezzo del Mittermeier, Gustav Friedrich Hänel, professore nell'Università di Leipzig, viene a conoscenza dell'opuscolo del Baudi e in una lettera del 13 dicembre 1836, prima di un fittissimo carteggio, chiede al giurista piemontese notizia delle scoperte e della loro eventuale pubblicazione, aggiungendo che hoc solum specto, ut inventum tuum, tuo nomine, quam primum per Germaniam divulgem, et in omnium iuris romani cultorum notitiam pervenire faciam. Il consistente carteggio tra i due studiosi, ora ritrovato in via di pubblicazione, si trova per le lettere del Baudi presso l'Universität Bibliothek di Leipzig e per le lettere dello Hänel nel già ricordato fondo patetta della Biblioteca Apostolica Vaticana. La prima lettera dello Hänel è preceduta da una presentazione dello Einbach al Peyron e soprattutto da una del Savigny allo Sclopis, quale massima autorità degli studi giuridici piemontesi. Senza dubbio, quindi, il Savigny risulta essere il promotore del fittissimo carteggio, nonché il tramite di una vera e propria circolazione di idee, sviluppatasi da allora in poi tra la Germania e il Piemonte, e avente per principale oggetto il codice teodosiano. In particolare dagli scritti del Savigny, costantemente intesi alla riscoperta del diritto tardo imperiale e alto medievale, e da quelli del Leo, determinanti per la ricostruzione del mondo longobardo e comunale, il Baudi riceve influssi essenziali nel momento stesso della sua formazione. E tuttavia, se l'attrazione verso il mondo germanico lo spinge a recepire la metodologia dei giuristi tedeschi, egli non diviene mai un ripetitore pedissequo, finendo anzi con l'impegnarsi in polemiche palesi o velate con lo stesso Savigny. In tal senso i rapporti tra il Savigny e il Piemonte si caratterizzano in modo autonomo rispetto al resto della penisola e in particolare alla Toscana, dove essi furono senz'altro più agevoli e per conseguenza più immediata e incontrastata ne fu la recezione. Mentre lo Hänel appare mosso da un interesse eminentemente testuale che lo porta con la metodologia filologica propria dell'Ottocento tedesco alla ricerca della genuinità della fonte, per il Baudi quest'ultima vale essenzialmente come sostrato nella ricostruzione dell'ambiente storico e istituzionale che l'ha prodotta. Spetta infatti al Baudi l'indiscutibile merito di aver intuito il difficile rapporto tra il codice teodosiano e la lex romana Visigotorum. Pur volendo restituire il primo, sue forme et integritati, rendendolo il più possibile simile a quello emanato da Teodosio II, egli ritiene di non poter prescindere nei primi 5 libri dall'inserimento del breviario alariciano al fine di sopperire alle gravi lacune rimaste. Questo problema non è invece sufficientemente avvertito dallo Henel, in quanto egli è particolarmente interessato dalla fonte fine a se stessa. Perciò lo studioso tedesco, che per adeguarsi alle esigenze del Corpus Iuris Romani ante Giustiniani di Bonn aveva dovuto inserire le Interpretationes Visigotiche nell'edizione teodosiana, scinde le due legislazioni in pubblicazioni del tutto distinte. E così, seguendo i suggerimenti del Savigny sulla tecnica dell'edizione, Loenel pubblica la Lex Romana Visigotorum secondo la lezione più plausibile e le affianca le epitomi per ottenere una visione completa del succedersi della tradizione visigotica nel tempo. Si deve a questo punto ricordare che a proposito di un epitome del breviario, la Lex Romanutinensis, si apre a partire dal Savigny una vivace discussione tra studiosi italiani e tedeschi, a cui non rimangono estranei lo Henel e il Baudi, come risulta anche dalla corrispondenza. Partendo dalla patria dell'epitome, italiana o svizzera, si arrivava a toccare il complesso problema della permanenza del diritto romano nel Medioevo. La Lex Romanutinensis, vista non come mera epitome del breviario, ma come fusione di elementi giuridici romani e germanici, veniva a rappresentare una rielaborazione normativa in periodo barbarico che poteva anche provare la persistenza del diritto classico. Le maggiori edizioni del Baudi, quelle del Codice Teodosiano e delle leggi longobarde, hanno dunque il merito di far partecipare la cultura piemontese, non senza apporti originali, alle correnti di studi che portarono la storiografia giuridica tedesca a produrre tra la seconda metà del XIX secolo e l'inizio del successivo alcune edizioni critiche tuttora valide. In effetti, anche lo studio delle fonti giuridiche longobarde risulta particolarmente avvertito in Piemonte, come lo era notoriamente in Germania. Oltre agli editta regum langobardorum del Baudi, di cui accenneremo più tardi, bisogna infatti tener presente che dal 1827 lo Sclopis aveva aperto nel Regno di Sardegna lo studio del mondo longobardo con la lezione accademica de Longobardi in Italia. Ma lo Sclopis, pur partendo dal discorso manzoniano del 1822, si distacca dall'allora divampante questione longobarda, in cui si riflettevano i sentimenti e le suggestioni politiche di un gruppo di intellettuali particolarmente sensibili alle stanze risorgimentali, come è stato assai efficacemente sottolineato dal professor Tabacco in apertura del congresso. Mi limiterò dunque a poche parole riguardanti il mio tema specifico. Attraverso un robusto esame storico-giuridico del problema, lo Sclopis lascia sostanzialmente da parte quell'interesse nazionalistico che ebbe a prevalere nel primo Ottocento, investendo storici italiani e tedeschi, e ricostruisce storicamente e giuridicamente l'impatto della realtà barbarica con la romanità al tramonto. Anche l'interesse per il mondo longobardo, non indirizzandosi precipuamente verso la polemica, si concentra più che altro sullo studio critico delle fonti, e in questo sempre il Piemonte si distingue dal resto d'Italia. D'altronde bisogna tener presente che proprio il Piemonte fu uno dei maggiori centri di recupero di manoscritti e codici riguardanti le fonti barbariche. Il ritrovamento da parte del Peyron del Codex Vercellensis intorno agli anni 20 e successivamente di alcuni frammenti delle leggi saliche e del Codex Eporediensis apre la strada a studiosi tedeschi e piemontesi verso la pubblicazione delle leggi longobarde, quindi vediamo che il cammino parallelo si ripercorre ugualmente. L'abate torinese permette nel 1821 al Blume di eseguire la copia del Codex Vercellensis, anche se fa ciò per distogliere, lo dichiara esplicitamente in una lettera inedita al Nibur, la sua attenzione dai frammenta taurinensia del Codice Teodosiano. E così favorisce la lunga impresa che porterà lo studioso tedesco all'edizione delle leggi longobarde nel 1868. D'altronde, egli aiuta in particolare il Baudi nella raccolta dei principali manoscritti, dando l'avvio al lavoro che porterà all'edizione del 1855, precedente quindi a quella tedesca. Tale edizione, che costituisce il tomo ottavo dei Monumenta Historiae Patriae, segna un passo avanti nella legislazione longobarda. Una sistemazione dell'ordine e della divisione delle leggi nell'editto di Rotari, alcuni prologhi di Liotprando fino ad allora poco conosciuti o parzialmente editi, il Memoratorium de Mercedibus Commacinorum, già edito dal Peyron e ora pubblicato criticamente e corredato dal commentario di Carlo Promis, costituiscono il frutto di un lavoro complesso, suffragato da una notevole perizia storico-giuridica. Benché l'edizione critica del Blume venga considerata più valida, quella del Baudi può essere consultata utilmente, mantenendo il pregio di avere nucleato il testo genuino degli Edicta. Si noti inoltre che essa trovò una notevole fortuna in Germania, dove ebbe subito dopo, nel 1856, una seconda edizione a cura del Neigebau, il quale era tra l'altro molto legato al mondo piemontese perché era stato presentato dal Witte al Balb e aveva fatto molti studi a Torino, un altro punto di legame. Va a questo punto ricordato che è caratteristica diffusa degli studiosi subalpini quella di aver scritto molto più di quanto non siano riusciti a stampare, nonché di aver ideato molti progetti mai portati a termine, riconducibili ad alcune realizzazioni della scuola storica proprio di quel periodo. Emblematici al riguardo sono i casi dello stesso Baudi e dello Sclopis. Il primo intraprese un'edizione del diritto romano post-classico che doveva comprendere sulla scia della coeva pubblicazione del Corpus Iuris Romani ante Giustiniani di Bonn i codici gregoriano, ermogeniano e teodosiano con l'aggiunta dell'intera legislazione giustinianea. Quanto allo Sclopis, è illuminante il suo progetto di un profilo del pensiero giuridico italiano da Irnerio a Beccaria, attraverso biografie intellettuali dei maggiori giuristi, per suggestione forse della storia del Juristenrecht tracciata dal Savigny nella seconda parte della sua Geschichte. Particolare significato assume anche il fatto che alcuni di questi studiosi pubblicarono vari lavori in Germania. Oltre al caso più noto del Peyron che dà le stampe presso editori tedeschi, alcuni suoi scritti giovanili, ho potuto desumere dai carteggi e quindi verificare attraverso lo spoglio delle maggiori riviste giuridiche che lo Sclopis, il Baudi e l'Albini vi pubblicarono articoli, oltre che per i quali, oltre che per il loro intrinseco interesse, sono assai significativi per la sede in cui apparvero. Si sapeva infatti che soprattutto lo Sclopis aveva dato alla luce numerosi lavori nelle riviste giuridiche francesi, ma non si sapeva che in misura notevole sia lui sia gli altri studiosi furono presenti in Germania attraverso un impegnato dibattito culturale. Si aggiunga che alcuni giuristi piemontesi contribuirono alla circolazione della produzione scientifica subalpina mediante puntuali e dettagliate informazioni fornite in particolare al Mittermeier per la rivista Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, da lui diretta, la quale non mancava di sottolineare il contributo piemontese allo sviluppo della scienza giuridica. D'altronde, intento del giurista di Heidelberg era quello di far mutare il giudizio negativo che gli studiosi tedeschi avevano della scienza giuridica italiana, attraverso la divulgazione delle più significative opere via via pubblicate. Sì, perché gli studiosi tedeschi consideravano in quel momento quasi una specie di sottocultura la scienza giuridica italiana. Sì, infatti. Si dimostra in tal senso assai incisiva, come ho detto, la presenza del Mittermeier nelle relazioni tra la Germania e il Piemonte, nonché per l'intera penisola, come sarà confermato dalla pubblicazione delle lettere degli italiani al Mittermeier in corso di allestimento sotto la direzione del professor Aldo Mazzacane. Passo ora a considerare, faccio parte anch'io, passo ora a considerare l'ampio filone di traduzioni delle opere storico-giuridiche germaniche da cui lo studio delle fonti viene notevolmente agevolato. Vi era infatti in una parte minoritaria ma significativa degli studiosi piemontesi una conoscenza approfondita della lingua tedesca, che in questo tra l'altro distingue il Piemonte dal resto d'Italia. Parte il caso di Napoli, dove il tedesco sarà ben conosciuto, e della Toscana, ma siamo in un'epoca leggermente successiva. Vi sono infatti in una parte, l'avevo detto, in particolare l'uso corrente da parte del Baudi, del gotico corsivo, è una peculiarità indicativa, specie a fronte del già ricordato orientamento generale del Piemonte verso il mondo di lingua francese. A ciò si aggiungono le ripetute visite in Germania del Baudi, del canonico e dello Sclopis. Non meno indicativo è l'oggetto dell'attività di traduzione, che si indirizza verso la migliore produzione savignana, oltre che verso altre opere di diritto germanico e di diritto romano. In tale filone di produzione appare determinante la funzione di Cesare Balbo, che fa da stimolo e da guida ad alcuni giovani studiosi, indirizzandoli nelle loro scelte, come era stato appunto anticipato dal professor Biondi negli interventi. Il Balbo, estraneo al mondo giuridico ufficiale, assume in quest'ambito un rilievo notevolissimo. Lo sforzo coordinato verso la ricezione della migliore produzione tedesca passa in larga parte attraverso la sua mediazione. La funzione delle traduzioni come strumento di diffusione culturale non sfugge infatti all'acume dello studioso, che nella premessa ad un suo volgarizzamento rimasto inedito di una novella tedesca traccia con finezza di pensiero lo scopo insito nelle versioni di sviluppare il legame con la letteratura e la cultura germanica. Ma le traduzioni dal tedesco, egli scrive, qualunque ne sia pur qui la cagione, sono più rare assai e meriterebbero non esserlo per le grandi virtù e l'efficacia di tutta quella letteratura in generale. Il filone delle traduzioni avviato e sviluppato dal Balbo si concentra da un lato sulla produzione relativa alle origini del municipalismo lombardo e germanico, dall'altro lato sulla produzione savignana, romanistica e altomedievale. Si deve infatti al Balbo la versione a motivo di studio dell'opera del Leo sulle vicende della costituzione delle città lombarde. Al suo interessamento quella della storia degli stati italiani dello stesso Leo, fatta eseguire e mai pubblicata dal Baudi, e alla sua cooperazione quella dell'opera sulla costituzione delle città tedesche dello Eichhorn, che il Balbo stesso corredò di note di una prima parte di traduzione. Il Balbo dunque percepì la reale portata innovativa degli scritti del Savigny e della scuola giuridica tedesca. Perciò la sua personalità fa da stimolo e da guida ad alcuni storici e giuristi piemontesi che, appartenendo al gruppo dell'Accademia delle Scienze, a lui fortemente legato, si orientarono all'incontro con il mondo culturale germanico. Le capacità organizzative del Balbo e soprattutto la sua passione per gli studi che aprono prospettive nuove lo spingono a cercare giovani esperti nella lingua tedesca che permettessero la circolazione di alcuni scritti di notevole rilievo. Resta da chiedersi se vi sono motivi più profondi e di ordine più generale nell'impegno particolarissimo posto dal Balbo ai fini del promuovimento delle traduzioni. E non si può non osservare che a lui, impegnato a dimostrare la continuità della storia d'Italia e desideroso di approfondire attraverso uno studio organico le vicende della penisola fin dalle sue origini, doveva essere particolarmente congeniale quel carattere proprio della storiografia tedesca che consisteva nel recupero del passato in funzione del presente. Come il Piemonte in Italia, così la Prussia in Germania era sulla via di promuovere l'unità nazionale e in tal senso due mondi politici e culturali tanto diversi miravano naturalmente ad avvicinarsi. Una testimonianza della particolare funzione del Balbo si evince dalla corrispondenza con Gian Pietro Vieusset e specificatamente da una lettera del 1832, il cui intento era quello di far circolare attraverso la rivista culturalmente più aperta alcuni scritti di autori tedeschi e del Savigny in particolare. D'altronde, la scelta dell'antologia fatta dal Balbo per favorire la ricezione del Savigny in Italia non appare casuale. e non soltanto per il peso culturale della rivista che aveva allora. Come è noto, infatti, pochi anni prima il Capei aveva proprio in quella sede iniziato a divulgare la Geschichte, favorendo la conoscenza dell'opera che fino ad allora non aveva avuto approfondimento nella penisola. Il Balbo, d'altronde, attraverso un progetto ben preciso, volle estendere la cognizione di un altro settore assai consistente della produzione savignana, quello rappresentato dagli scritti cosiddetti minori. A questo importante compito lo storico subalpino chiamò i giovanissimi Gorresio e Baudi, che portarono a termine il lavoro, ma che probabilmente non lo resero di pubblica ragione per le difficoltà dovute all'imminente soppressione dell'antologia. Le loro traduzioni videro la luce alcuni anni più tardi sul Subalpino, idealmente legato alla rivista del Vieux-Sé, che indubbiamente tentava di perpetuarne il discorso culturale. Le scelte operate dal Balbo tra gli scritti del Savigny potrebbero essere determinanti al fine di vagliare il legame instauratosi con la scienza giuridica tedesca. Pur non esistendo testimonianze dirette in proposito, cioè il Balbo non lo dice esplicitamente né nelle lettere, almeno per quello che io ho potuto vedere, né nelle opere, si può fondatamente supporre che nel pensiero dello storico subalpino lo studio delle strutture sociali e del sistema fiscale romano fosse la radice prima per comprendere l'organizzazione dell'impero al tramonto nell'impatto con le popolazioni barbariche. Al Balbo non poteva certamente sfuggire tale aspetto per la sua costante attenzione al problema istituzionale, fulcro degli studi che in quegli anni andava compiendo. In tale problema istituzionale, come si è accennato, l'elemento della continuità era per la scuola storica caratteristica essenziale e qualificante. Al Balbo, tenace assentore del nesso che univa passato e presente e quindi del legame tra il mondo romano e le epoche successive, il motivo della continuità appariva da riprendere e da meditare. Siamo naturalmente intorno agli anni 30, sicché l'apporto del Savigny e della storiografia tedesca assumeva la funzione di convalidare le basi delle proprie intuizioni. Nascono in tal modo nel 1836 le traduzioni del saggio Über den römischen Kolonat da parte di Gaspare Gorresio e di quella Über den römische Steuerverfassung unter den Kaiser da parte del Baudi, fino alla prima traduzione italiana della Geschichte realizzata dal Bollati. La prima del Gorresio ha particolare rilevanza e tutte spinte dal Balbo, insomma, chiaramente, perché risulta sfuggita agli elenchi delle traduzioni italiane degli scritti del Savigny e perché fu realizzata da uno studioso estraneo al mondo giuridico che divenne poi un noto sanscritista. La seconda, d'opera del Baudi, fu preceduta da una breve prefazione polemica che toccò la sensibilità del Savigny. Quest'ultimo, ripubblicando il saggio nelle Vermisste Schriften, si limitò a citare la traduzione del Baudi, rilevando con le stesse parole di quest'ultimo le limitazioni. Ma in proseguo di tempo non poté fare a meno di testimoniare, se non l'importanza delle preziose scoperte del Baudi, almeno quella di alcune sue interpretazioni, fino ad allora non valorizzate. Con l'apporto delle costituzioni inedite e con una rilettura approfondita delle costituzioni stesse, il sistema tributario romano veniva ad acquistare una peculiare chiarificazione. Un grado assai più profondo di maturazione nella ricezione del Savigny in Piemonte si raggiunge con la traduzione della Geschichte ad opera di Emanuele Bollati. Siamo alla metà del secolo. La versione del Bollati, malgrado errori ed inesattezze fin troppo severamente criticati, si può considerare, come è stato rilevato da Edoardo Volterra, superiore a tutte le altre eseguite nel secolo scorso, a questa assai inferiori e manchevoli. Perciò di recente si è effettuata una ristampa anastatica. Quanto mai opportuna e benemerita, scrive ancora il Volterra, trattandosi di un'opera ormai introvabile nel mercato librario, continuamente richiesta e ricercata dagli studiosi e di cui parecchie biblioteche pubbliche sono sprovviste. Assai interessante considero a tal fine il ritrovamento nel Nachlass Savigny a Marburg di una lettera del 20 agosto 1852 del Bollati allo stesso Savigny, scritta al momento di inviare in tipografia il primo volume già tradotto. Il Bollati aveva sentito l'esigenza di porsi in contatto con il grande studioso tedesco per esporgli il piano della traduzione basato su due punti essenziali. Il primo, di carattere estrinseco, incentrato sulle modalità con cui procedere alla suddivisione dei volumi, alla sistemazione delle prefazioni e alla compilazione degli indici. Il secondo, di carattere intrinseco, volto a proporre l'inserimento di eventuali aggiunte da parte del Savigny nella traduzione, cosa che poi, come si vede, il Savigny non fece. Il Bollati, tuttavia, non tenne fede ad una parte del progetto. L'assenza degli importanti e assai dettagliati indici al termine della traduzione ne è l'evidente testimonianza. Bisogna anche tenere presente che il Bollati svolse una più vasta attività di traduttore, che si indirizzò sulle opere ed alcuni opuscoli del Beckhaus, del Merkel, dello Staub, del Peirce e dell'Anschutz, rivelando un vivo interesse per le tematiche storico-giuridiche maggiormente sentite da quella storiografia romanistica e germanistica, e consentendo una vasta circolazione delle opere più significative prodotte in quel momento dalla scienza giuridica tedesca. Ho accennato in precedenza all'influenza del Savigny su quello che e sa nella continuazione dei Monumenta e Storie Patrie, la sua espressione più evidente, che impronta tuttora di sé gli studi subalpini. Inoltre, la storia della legislazione dello Sclopis, nella quale emerge l'insegnamento del maestro tedesco, può considerarsi la manifestazione più significativa del nuovo slancio degli studi storico-giuridici nella penisola e ovviamente nel Piemonte. Anzi, come è stato assai efficacemente sottolineato, quest'opera segna il superamento di una visione frazionata e regionale in favore di una prospettiva nazionale unitaria. Quanto il Piemonte abbia parte in questa rinnovata prospettiva della storia degli studi, dalla riscoperta delle fonti alle traduzioni alle rielaborazioni delle ricerche della scuola storica tedesca, in peculiari situazioni d'ambiente che condizionano la ricezione degli apporti e la caratterizzano in modo specifico, ma non la vanificano e anzi ne consentono la penetrazione con frutti durevoli, è quello che ho cercato di ricostruire alla luce soprattutto di una documentazione inedita nella relazione presente. Grazie. Danke sehr herzlich, Signorina Moscati, und bitte zu entschuldigen, dass ich Sie unterbrochen habe. Aber ich möchte ihr auch noch gratulieren für diese wirklich großen und bedeutenden Funde, die sie gemacht hat in den Archiven, diese gewaltigen Carteggi zwischen den deutschen und den italienischen Gelehrten, weil das ist wirklich etwas, was auch für das Programm unseres Instituts und für unser Anliegen, nicht, die Dokumentation der höchst intensiven Zusammenarbeit zwischen der historischen Schule, der Rechtswissenschaft in Deutschland und in Italien hier geleistet worden ist. Es ist direkt, möchte ich fast sagen, auch ein Beispiel für die heutige Zeit, und wir können da in der Beziehung wirklich nicht sagen, dass wir einen sehr großen Fortschritt gegenüber damals erzielt haben, sondern im Gegenteil eher einen Rückschritt in der Zeit des brennenden Nationalismus hat man diese Dinge eigentlich dann vergessen. In der Zeit des integralen Nationalismus am Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind diese intensiven Kontakte eigentlich nicht hergestellt worden. Sie sind dann später, eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg erst wieder, aber auch da haben wir noch einiges zu machen. Ich will nicht lang reden, wir machen jetzt... Io volevo anche dire che sono rimasto anch'io molto colpito dalla ricchezza di questa relazione, che peraltro era annunciata dal libro recente, e che non fa rimpiangere neanche troppo il venir meno della relazione più generale sul diritto che doveva tenere Mazzacane, appunto la storiografia giuridica italiana e i suoi modelli tedeschi. Volevo aggiungere che effettivamente io mi rendo perfettamente conto, come il professor Reitz si rende anche perfettamente conto, che nello studio dell'incontro fra Italia e Germania nell'Ottocento sul Medioevo, il diritto avrebbe dovuto occupare un posto molto più grande di quello che è stato possibile attribuirgli nel nostro piano. Ecco, e in realtà voi avete già verificate quanto fitto è il nostro programma, pur senza toccare un fenomeno così importante e complesso come il diritto. Allora, a maggior ragione, sono proprio stato molto contento di questa relazione della dottoressa Moscati, perché con questa relazione siamo riusciti a toccare 3 o 4 punti diversi, ma tutti altrettanto importanti, di questo problema del diritto. Per quel che riguarda me, questo orientamento di studio della Moscati è anche innovativo rispetto a una ricerca che è tutta da rifare, a mio avviso, per l'ottocento italiano, e che riguarda la presenza e i modi della presenza in Italia, nelle diverse parti d'Italia, del modello tedesco, che secondo me è stato progressivamente dimenticato, cioè dalla storiografia del XX secolo, a favore invece di una dominanza di modelli inglesi e francesi, che pur evidentemente ci sono stati, ma che non hanno avuto, secondo l'impressione che io ho, e che però è stata ampiamente confermata per una regione così caratteristicamente sempre portata ad esempio dell'influenza francese come il Piemonte, dalla Moscati. Io credo che indagini di questo tipo su altre regioni, su altre discipline, dal diritto ad altre, come abbiamo anche visto nei giorni scorsi, porterebbero un notevole ribaltamento di quelle che sono le coordinate culturali, le dipendenze, i debiti o anche i crediti, se si vuole, della nostra situazione, insomma, italiana. E non è un problema da poco, perché la scienza, soprattutto ancor più allora che oggi, secondo me veramente si faceva a livello internazionale, a livello europeo. Quindi veramente molte grazie, e adesso temo che non avremo poi molto tempo per la discussione, perché come al solito siamo strangolati, e un difetto dei seminari che ho organizzato io è che purtroppo sono sempre troppo ottimista, insomma, e ci metto sempre dentro troppa roba.